Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Durante i giorni della terribile alluvione tutto era a rischio, ma Firenze non si era assegnata. Con pazienza e con determinazione ha saputo ripartire. Firenze allora ha dimostrato che rinascere è possibile. Ricostruire è un dovere, con l'aiuto dello Stato e con la solidarietà di tanti. Questo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella oggi a Firenze, dove si è celebrato con cerimonie, con varie iniziative, il 50° anniversario dell'alluvione che 50 anni fa, il 4 novembre del 1966, devastò la città. E lì arrivarono i famosi angeli del fango, no? Giovani da tutta Italia e da tutto il mondo per mettere in salvo, per aiutare le persone, per mettere in salvo anche le tante opere d'arte della città. Ne parleremo a Firenze, tra l'altro, ne parleremo nel corso di Effetto Notte. A Firenze, tra l'altro, oggi prende il via la Leopolda, la nuova edizione della kermesse politica che fu ideata nel 2010 da Renzi e da Pippo Civati, che adesso non è più dentro il PD, e che lanciò Renzi da sindaco di Firenze alla politica nazionale e poi a Palazzo Chigi. Ci occuperemo, fra gli altri temi, anche di Turchia, perché è un paese che è nel caos e continua a essere nel caos dopo il tentato golpe dello scorso 15 luglio. Poi ci sono state, sapete, migliaia di epurazioni, arresti, licenziamenti, eccetera, e adesso c'è stato l'arresto di alcuni deputati, quindi si è superata una certa soglia, quella che fa gridare anche l'Europa alla compromissione della democrazia. Per la vostra interazione con Effetto Notte, lo sapete, c'è sempre la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è il 349-238-6666, 349-238-6666. Io intanto, finché la voce regge, vi racconterei prima di tutto, come sempre, la giornata. Presidenziali americane, secondo le ultime proiezioni, Clinton sarebbe sotto il quorum dei grandi elettori, 268 contro i 204 di Trump, ne servono per vincere 270. Intanto è massima allerta a New York per possibili attentati. Turchia, arrestati i deputati curdi, protesta di piazza repressa, condanna europea, ma Ankara replica: non accettiamo le opzioni dall'Europa. Iraq, si combatte a Mosul, l'ONU denuncia uccisioni di massa e rapimenti. Terremoto, via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto. Partito Democratico, Renzi torna alla Leopolda, ma il PD non è mai stato così spaccato. Firenze, cerimonie e iniziative oggi per il 50° anniversario dell'alluvione che devastò la città. La ragazza suicida per il video hard, secondo il Tribunale di Napoli, Facebook doveva rimuovere i filmati illeciti. E in Germania Zuckerberg è indagato per la prima volta dopo una denuncia di contenuti non rimossi. Il crollo del cavalcavia Lecco, avviso di garanzia per tre ingegneri. E sulla 4, vicino Brescia, in serata piovono calcinacci da un ponte chiuso un tratto di autostrada verso Milano. Radio Maria, il terremoto è stato un castigo divino per le unioni civili, dice un prete, e il Vaticano si dissocia. Partiamo quindi dalle prossime e imminenti, direi, elezioni presidenziali americane. Vi ricordo, tra l'altro, che ci sarà una diretta non stop qui a Radio 24 a partire dalle 21 con uno speciale di Effetto Notte per 3 ore, e poi la diretta fino all'elezione del nuovo presidente o della nuova presidente. Per la prima volta comunque Hillary Clinton scende sotto la soglia di 270 grandi elettori necessari per essere eletti alla Casa Bianca. Nella proiezione, questo risulta nella proiezione quotidiana della CNN, elaborata con un mix di dati che sono sondaggi, coperture della campagna negli stati critici, flussi degli spot televisivi, eccetera. Attualmente ne avrebbe Hillary Clinton 268 contro i 204 di Trump, e come vi dicevo ne servono 270 per vincere. Nel frattempo gli agenti federali hanno messo in guardia le autorità di New York su possibili attacchi da parte dei militanti di Al-Qaeda intorno proprio all'Election Day, al giorno delle elezioni. L'allerta quindi è già alta da una settimana, da quando in programma la tradizionale maratona domenica 6 novembre. Siamo consapevoli delle informazioni, stiamo lavorando, dice la polizia di New York. La tosse. Iraq e Mosul proseguono i combattimenti, l'ONU denuncia uccisioni di massa. Come previsto, l'ISIS in Iraq resiste strenuamente e brutalmente, non solo, contrattacca. Una trentina di miliziani hanno compiuto in giornata un'incursione nella città di Shirkat, 100 km a sud di Mosul. Si sono barricati in una moschea e hanno attaccato un centro delle forze di sicurezza. Prima di essere sopraffatti hanno ucciso 16 persone, tra cui 6 agenti di polizia, e ne hanno ferite altre 11. L'ONU intanto denuncia nuove uccisioni di massa e trasferimenti forzati di civili. Lo Stato Islamico a Mosul starebbe rastrellando casa per casa bambini di 9 e 10 anni per reclutarli come combattenti. Risulta inoltre che quasi 400 donne delle minoranze curda, sciita e yazida siano trattenute dai miliziani dell'ISIS a Tal Afar, una cittadina ad una sessantina di chilometri a ovest di Mosul. E anche all'interno della roccaforte la resistenza è feroce, con gli jihadisti che combattono strada per strada, anche con autobomba, chiudendo tutti gli accessi alle forze irachene che sono penetrate da est ma che non riescono al momento a guadagnare il nuovo terreno. Per questo le forze governative stanno cercando di aprire un secondo fronte a nord-est di Mosul, puntando verso i quartieri di Tahrir e Zahara. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Turchia di Erdogan decapita l'opposizione curda, arrestando con l'accusa di sostegno al terrorismo del PKK 9 deputati del partito HDP, tra cui il suo leader carismatico Dermitas, un colpo durissimo che suscita allarmi a livello internazionale e spinge l'Unione Europea a parlare di democrazia compromessa. Un paese, tra l'altro, già spaccato dopo il fallito golpe del 15 luglio e le maxi purghe di decine di migliaia di persone. E alla condanna europea Ankara replica dicendo non accettiamo lezioni dall'Europa. Poi con Ankara ci collegheremo nel corso di Effetto Notte. Borse nervose e spread tra BTP e Bund tedeschi che ha chiuso a 162 punti base. Oggi preoccupa l'incertezza degli esiti delle elezioni americane dell'8 novembre. Londra alla peggiore dopo le decisioni dell'alta corte sulla Brexit. Rispetteremo gli impegni precisi presi, dice il governo britannico. Theresa May rassicura Bruxelles, il calendario sulla Brexit non cambia, l'articolo 50 per l'avvio automatico dell'uscita dall'Unione verrà attivato entro marzo 2017, ciò nonostante i giudici abbiano stabilito che il governo non può avviare i negoziati senza il via libera del Parlamento, processo che richiederebbe dei mesi, ma a Downing Street sono fiduciosi, vinceremo l'appello alla Corte Suprema a dicembre, dicono. Non è così convinto Ivo Ilic-Gabara, che fa parte del team di Gina Miller, unica firmataria del ricorso all'alta corte, una mossa doverosa, stavamo andando avanti alla cieca, ci racconta. Quello che si voleva fare in modo è che ci sia una pausa, un momento di riflessione affinché le autorità di questo paese abbiano l'opportunità di valutare con attenzione qual era la forma migliore per portare avanti il Brexit. Intanto c'è chi chiede di andare al voto e la Scozia si schiera contro la May. Potremmo entrare anche noi nella causa, afferma la premier scozzese Sturgeon. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia adesso con la manovra, oggi sono state le audizioni di parti sociali e ministro dell'economia. Una manovra da 26,7 miliardi per il prossimo anno e che persegue un equilibrio tra crescita e consolidamento. Il ministro dell'economia Padoan difende la legge di bilancio, la scelta del governo di fissare un extra deficit per migranti ed emergenza terremoto. Il paese vi sta facendo fronte al meglio e continuerà a farlo a beneficio dell'Italia e anche dell'Europa. Dal 2014 ad oggi c'è stata una riduzione di imposte graduale ma costante, dice ancora Padoan. IRAP, TASI ed IRES per meno tasse il prossimo anno per 23,5 miliardi. Poi così Padoan sullo spread al rialzo. Io ho valutato la discesa dello spread in questi mesi, in questi 30 mesi, come l'apprezzamento, tra le altre cose, per l'azione di politica economica. Se questa tendenza viene invertita è perché nel mercato ci siano timori che questa azione di politica economica si interrompa. Dalla manovra impulso a rafforzare la crescita, dice quindi il direttore generale di Confindustria Panucci. Critiche dai sindacati. Le risorse previste per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione sono insufficienti, spiegano CGL Cisle Will. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul fronte terremoto via libera questa mattina al nuovo decreto per affrontare l'emergenza. Primo obiettivo: dare assistenza alle popolazioni colpite, dunque via all'acquisizione dei container da parte della protezione civile e alla sistemazione in aree adeguate. Poi favorire il rientro nelle case che hanno danni lievi, e allora i privati potranno, dopo aver presentato il progetto firmato da un professionista abilitato, procedere al ripristino dell'agibilità degli immobili. Discorso simile per il patrimonio storico e artistico. I comuni interessati potranno fare degli interventi indispensabili, comunicandoli al Ministero dei Beni Culturali. Altra emergenza, quella scolastica: assicurare il ritorno di tutti gli alunni ai propri libri con spazi e docenti. E poi sostenere il settore zootecnico, stanziati subito poco meno di 11 milioni. Il decreto snellisce i tempi e la burocrazia, procedura semplificata per l'acquisizione delle strutture necessarie per le aziende, più poteri ai sindaci anche per assumere personale tecnico e amministrativo fino a 350 persone. Ma il nodo più delicato era la definizione aggiornata del cratere del sisma, 62 i comuni inclusi nel decreto precedente, ai quali si devono aggiungere i nuovi. Tanti, considerata l'area interessata, 600 km quadrati. Più sono i comuni, maggiori le risorse necessarie. Al momento non si conosce il nuovo elenco, ma solo il timore che i 4 miliardi e mezzo già stanziati non siano sufficienti. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora spostiamoci su Firenze. Renzi torna alla Leopolda, la kermesse politica che lo lanciò verso la politica nazionale e poi a Palazzo Chigi, ma il PD non è mai stato così spaccato, così diviso. Tema principe comunque del raduno politico è il referendum, mentre è al lavoro ovviamente in queste ore anche il fronte del no. Fallita la possibilità di accordo per modifiche al DDL Boschi sulle riforme costituzionali e all'Italicum, Silvio Berlusconi lancia la campagna per il no ed insiste che qualora dovesse prevalere il 4 dicembre, la strada deve essere quella delle riforme condivise. Così Renato Brunetta. È già sceso in campo, adesso lo si vede, lo si sente di più. Sarà determinante a convincere ovviamente tutti gli elettori del centrodestra, in particolar modo quelli di Forza Italia, ma a convincere gli italiani. In realtà Berlusconi avrebbe chiesto a Matteo Renzi una mediazione, l'elezione diretta dei futuri senatori, maggiori poteri alle regioni, quorum più alto per eleggere il capo dello Stato, ma lo stesso Premier avrebbe respinto la proposta. E nella riforma azzurra spunta anche un limite alla pressione fiscale, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Nel frattempo i 5 Stelle bocciano il ricorso dell'ex Presidente della Consulta, Valerio Nida, perché potrebbe posticipare la data del voto, e accusano il Premier Matteo Renzi di usare le risorse pubbliche per la campagna del sì. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ne parleremo tra poco collegandoci con Firenze, dove oggi tra l'altro si è celebrato con cerimonie e iniziative alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e anche di Renzi il 50° anniversario dell'alluvione che devastò la città il 4 novembre di 50 anni fa. 4 novembre che tra l'altro è anche giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Parliamo adesso della ragazza suicida per il video Hard. È stato accolto dal Tribunale di Napoli il ricorso della madre della ragazza. Dovevano essere rimossi da Facebook, dice il Tribunale, i link e le informazioni relative alla giovane donna una volta che ne era emersa l'illecità dei contenuti. Torneremo a occuparcene più tardi. E proprio oggi si è saputo che il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, è indagato dalla magistratura tedesca per la mancata rimozione di contenuti ritenuti criminali e negazionisti del genocidio ebraico. Siamo alla cronaca, il cavalcavia crollato a Lecco, ci sono i primi indagati. Tre avvisi di garanzia sono stati notificati ad altrettanti ingegneri, due della provincia e uno dell'ANAS, nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del cavalcavia De Annone, nel Lecchese, che ha causato un morto e diversi feriti la settimana scorsa. L'inchiesta ipotizza i reati di omicidio colposo e disastro colposo. Dei tre ingegneri, uno, quello dell'ANAS, è responsabile della manutenzione del cavalcavia crollato sotto il peso di un tir che portava un carico di bobine d'acciaio. A quanto si è saputo, in questa fase dell'inchiesta si sta cercando di capire se c'è stata una mancanza di coordinamento tra i tecnici provinciali e quelli dell'ANAS. Quel giorno, infatti, un primo allarme si era verificato intorno alle 14 per la presenza di calcinacci lungo la statale 36 dello Spluga, provenienti dal cavalcavia sulla provinciale 49. I tecnici dell'ANAS avevano contattato quelli della provincia, ma nessuno tra il personale dei due enti aveva disposto la chiusura. A giorni, l'autopsia sulla salma della vittima, Claudio Bertini, 68 anni, intanto hanno avviato i lavori di indagine anche i tecnici della commissione voluta dal ministro delle Infrastrutture su documenti. documenti e progetti nella sede ANAS e della provincia. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo anche di altri calcinacci che sono caduti da un cavalcavia a Brescia che sovrasta l'autostrada 4. Si tratta del ponte 218 all'altezza di San Polo, uno dei quartieri periferici della città. Al momento i vigili del fuoco sono al lavoro e l'autostrada è stata chiusa per un breve periodo di tempo in entrambe le direzioni prima di essere riaperta al traffico. Solo la circolazione in direzione Milano, ancora chiuso quindi il tratto di autostrada in direzione Venezia. E per chiudere questa coda di polemica sul sisma, il Vaticano condanna le affermazioni andate in onda su Radio Maria riguardo al terremoto come castigo divino dopo le unioni civili. Sono affermazioni offensive per i credenti, scandalose per chi non crede, deplora Angelo Becciu, sostituto alla segreteria di Stato. E padre Cavalcoli però conferma tutto, l'ho intervistato alla Zanzara. Risentendo le mie parole, tutto sommato è un'opinione legittima. Dunque? Non vedo che ci sia. Ma dunque si può pensare anche che sì, il terremoto possa essere un richiamo, anche un castigo per i peccati degli uomini. In questo senso. Cioè, e le unioni gay sarebbero dei peccati, lei dice? Ah, ma si capisce, adesso questo è chiaro. Insomma, giudicate voi. A questo punto ci lasciamo per gli aggiornamenti di chi viaggia. Dice Daniele Calò da Calolzio Corte che voce strana è stasera, sembri un trans. Non mi sto trasformando, con tutto il rispetto, è che proprio questa, diciamo, un'infiammazione fortissima alla gola e alle corde vocali. E poi Fabio che dice alla fine eccetera eccetera, è un piacere ascoltarti stasera, mi dispiace Fabio un po' meno ma cerco di resistere. E poi un altro ascoltatore che scrive: curiosità, ma Civati ce l'ha un nome o l'hanno battezzato proprio Pippo? Si chiama Giuseppe. Sono proprio la curiosità di questo ascoltatore. 349-238-6666 per i messaggi WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presento. Sono Giovanni Minoli. Tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo tra poco, Roberto Giordano sempre con voi, con una voce che ha definito un ascoltatore quasi da trans, ma è così, sono gli acciacchi di stagione. Se avete un rimedio immediato così per mal di gola e tosse e bronchite, se me lo mandate ve ne sarei grata. Continuate con i vostri messaggi anche di altro tipo, naturalmente sulle notizie del giorno, alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure con i messaggi SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Allora... Avete sentito il riassunto della giornata? Tra pochissimo ci colleghiamo con Firenze, ma vorrei anche sentire dalla Leopolda, c'è già Matteo Richetti, vicinissimo a Renzi, è stato un periodo un po' così di dissidio e poi di nuovo sta parlando sul palco. Il messaggio è: questi politici sono attaccati alla poltrona come delle cozze, siamo nel 2011, quelle firme dicevano limite dei due mandati, acqua pubblica, bene. Noi un mese e mezzo dopo facciamo le nostre 100 proposte. Sapete cosa accade a 6 anni di distanza? Che noi, le firme che ha raccolto Beppe Grillo, se passa la riforma della Costituzione, le portiamo in Parlamento. Qualcheduno si è accontentato della telecamera. Questo Matteo Richetti in attesa domani, dopodomani, adesso ci faremo dire, della presenza di Renzi poi sul palco della Leopolda a Firenze. Vi ricordo velocemente le notizie, se non avete acceso puntualmente la radio, alle 21. In Turchia arrestati i leader curdi, in particolare il leader Demirtas, dal carcere, dice: la lotta continuerà, c'è la condanna dell'Europa. Il presidente del Parlamento europeo Schulz dice: sono in discussione le relazioni tra Ankara e l'Unione Europea, ma la Turchia risponde no a lezioni dall'Europa. Renzi torna alla Leopolda, Cuperlo, che è della minoranza Dem, firma per cambiare l'Italicum, Berlusconi torna in TV per il no, dice: sposterò almeno il 5%. E poi paura sul voto, rischio attentati di Al-Qaeda negli Stati Uniti. Lunedì, per quanto riguarda lunedì, la CNN dice che Hillary Clinton per la prima volta sarebbe sotto il quorum dei 270 grandi elettori che servirebbero per vincere. E poi Padoan che dice meno tasse, annuncia meno tasse per 23 miliardi e mezzo e parla di una crescita più robusta dell'economia italiana. E questa polemica poi sul che riguarda Radio Maria, un prete, un conduttore di Radio Maria che ha detto il terremoto è un castigo divino conseguente alle unioni civili, il Vaticano condanna questa uscita e si dissocia. E poi Facebook non rimuove i contenuti antisemiti e il fondatore Zuckerberg è indagato a Monaco, mentre sempre per dei contenuti di Facebook che non sono stati eliminati, il Tribunale di Napoli intima alla social network di togliere i video hard su Tiziana Cantone, la ragazza che si era suicidata per questo video hard che la ritraeva a sua insaputa. Quindi oggi Firenze è il centro di due eventi, forse prima di tutto il 50° anniversario dell'alluvione che travolse il capoluogo toscano il 4 novembre di 50 anni fa, e l'altro, ne abbiamo sentito un pezzettino prima, la Leopolda, la creatura renziana, il raduno annuale, la convention come si dice, all'ex stazione fiorentina Leopolda, e la kermesse ideata da Renzi e al tempo anche da Pippo Civati, che adesso dicevo è fuori dal PD e che ha lanciato l'ex sindaco di Firenze nella politica nazionale e poi direttamente a Palazzo Chigi. Ma partiamo dal 50° anniversario del 4 novembre del 1966. L'Arno straripò, la città venne sommersa dal fango, morirono 35 persone, l'acqua riempì lentamente le strade di notte, le vittime quindi furono per lo più sorprese nel sonno e furono ingenti i danni al patrimonio artistico, e arrivarono, vi dicevo, da tutto il mondo centinaia di angeli del fango, giovani volontari accorsi a Firenze per contribuire al salvataggio della città e delle sue bellezze. Oggi tante iniziative, tante cerimonie, ci colleghiamo con Ubaldo Cianciulli che le ha seguite da Firenze. Ciao Ubaldo. Ciao Roberto, buonasera. Su un fine settimana ricco a Firenze non ci facciamo mancare nulla. Infatti. Quindi iniziamo dall'anniversario, dal 50° anniversario. C'era sì. Mattarella, c'era Renzi. Sì, si è partita dando dei numeri pesanti, 35 morti. Te li completo dicendo che 17 furono a Firenze e 18 nella provincia, e la conta dei danni fu molto lunga. Soltanto a Firenze ben 150.000 abitanti coinvolti, 14.000 abitazioni devastate, 5.000 senza tetto, 4 miliardi di lire di danni sulle strade, 850 opere d'arte danneggiate, danni totali 2.000 miliardi di lire. Quindi una cosa effettivamente molto molto devastante. L'acqua iniziò a inondare la zona di Rovezzano alle 5 del mattino, alle 8.30 c'erano già 3 metri d'acqua in centro a Firenze, ma nonostante gli allarmi della prefettura, soltanto alle 16.28 il governo si attivò per iniziare a prendere coscienza di quello che stava accadendo a Firenze, ma non solo, perché è un'alluvione che coinvolse Firenze, ma anche Pisa, Siena, Pistoia, Arezzo, Livorno e Grosseto. Il sindaco di allora era Piero Bargellini, che il 6 novembre accolse nel fango il presidente Giuseppe Saragat. E questa mattina tante sono state le iniziative su Firenze. Ricordiamo che nel Salone dei 500 c'è stato il ricordo dei tanti angeli del fango che hanno partecipato, sono quelle persone che spontaneamente 50 anni fa si rimboccarono le maniche, arrivarono da tutto il mondo per dare una mano alla Firenze, per riportare fuori le tante opere d'arte che erano finite sotto il fango, e una di queste opere d'arte oggi alle 3 è stata riportata alla luce alla presenza del presidente Sergio Mattarella nel Cenacolo di Santa Croce. Si tratta dell'ultima cena di Giorgio Vasari. 40 anni è rimasta avvolta nel fango, negli scantinati della sovrintendenza. Negli ultimi 10 anni, grazie alle nuove tecnologie e agli sponsor, l'opificio delle Piazze Dure è riuscito a restaurarlo, e oggi pomeriggio effettivamente questa bellissima tela di 2,60 m per 6 metri circa, insomma, quindi una bella tela, un bel quadro, effettivamente è stata scoperta davanti agli occhi di tanti curiosi fotografi, appassionati d'arte e presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Stamani a Palazzo Vecchio una sorpresa, è arrivato anche di corsa Matteo Renzi, che appunto è a Firenze per la Leopolda, no? Per la Leopolda, e quindi diciamo ha unito l'una e l'altra iniziativa. Senti, Ubaldo, lo risentirei Mattarella, tra le varie cose che ha detto partecipando a Palazzo Vecchio al 50° anniversario, sentiamolo. Agli angeli del fango vorrei dire: abbiamo ascoltato le vostre testimonianze, i vostri ricordi, e rivissuto le vostre passioni. È il merito anche vostro se Firenze, da città dell'alluvione, è tornata ad essere rapidamente in Italia e nel mondo grande capitale culturale. Avete dimostrato che la solidarietà non conosce confini né divisioni di ceto sociale, di nazionalità, di religione, di ideologia. Ecco, questo è il ringraziamento di Mattarella per quegli angeli del fango che oggi, tra l'altro, Ubaldo, erano presenti un po' imbiancati, visto che sono passati 50 anni. E poi Mattarella ha ringraziato però anche gli angeli di oggi, tutti i volontari che intervengono nelle emergenze come quella del terremoto. Oggi altri angeli nelle Marche, nell'Umbria, nel Lazio, colpite dal terremoto, nelle aree di guerra e di carestia, ovunque vi siano uomini, donne e bambini in pericolo, scavano tra le macerie, curano malati e feriti, assistono profughi e indigenti. Sono anche i vostri eredi. Le immagini di tanti giovani con gli stivali che si passano di mano in mano carte antiche, opere d'arte e oggetti preziosi resteranno impresse nella memoria e nelle pagine della storia. E sicuramente è rimasto impresso nella storia di tutto il mondo la vicenda di Firenze del 66, no? Oltre naturalmente a quello che sta succedendo purtroppo nel centro Italia. Ubaldo, poi è iniziata alle 20:30, se non sbaglio, anche una fiaccolata? Sì, è iniziata una fiaccolata e a questo punto penso che si stia anche per concludere. E a proposito degli angeli del fango, consideriamo che 50 anni fa la protezione civile non esisteva, già. È nata dopo i terremoti del Friuli, quindi questo diciamo è di motu proprio, cioè i volontari che si rendono conto della necessità di muoversi e andare su Firenze, in modo anche, se vogliamo, un po' disorganizzato, perché non c'era appunto un coordinamento ufficiale. Ovviamente poi, arrivati sul posto, sulla piazza, i vari gruppi si organizzavano. Da Bologna, ad esempio, partì una spedizione, 200 mezzi autosufficienti per portare i propri aiuti su Firenze. E il volontariato, il terzo settore, il no profit, che poi ha preso corpo e è diventato un'anima, motrice per gli aiuti nelle disgrazie e tragedie che sono verificate in Italia e non solo. E proprio il terzo settore, proprio il volontariato, sono gli argomenti di questa settima edizione della Leopolda di Matteo Renzi. Già, proprio perché il terremoto ha cambiato un po' quello che era il tema centrale, che resta comunque il referendum, però c'è la parola chiave anche ricostruzione, no? Lì alla Leopolda, Ubaldo, quest'anno. Sì, ricostruzione, no profit, terzo settore, volontariato, e proprio nell'ottica della ricostruzione domani pomeriggio è atteso l'intervento dello stilista Brunello Cucinelli, che ha annunciato di voler restaurare la Basilica, sì, di San Benedetto a Norcia, sempre nell'ambito della ricostruzione. Questa sera, dopo l'intervento di Matteo Richetti, abbiamo sentito in apertura, ci sarà una spaghettata alla matriciana a favore delle zone terremotate. Una curiosità: la settima edizione della Leopolda di Matteo Renzi è significativa perché nasce in una questa iniziativa di Renzi in una stazione, una vecchia stazione. Da qui è partito il treno che ha portato Matteo Renzi da un piccolo paese toscano, Rignano sull'Arno, fino a Roma, da presidente della provincia di Firenze a presidente del Consiglio. E quest'anno, forse un po' in tono minore, l'unica presenza extragovernativa, a parte ovviamente il Premier, sarà quella del ministro Boschi, madrina della Leopolda sin dall'inizio. Non ci dovrebbero essere altri rappresentanti di governo. Metto in condizione, perché il programma è ancora molto top secret, anche per quello che riguarda gli ospiti. Si era parlato di Benigni, si era parlato di Giovanotti, però per ora nessuna conferma. Quando saremo alla Leopolda, quando vedremo chi partecipa ai tavoli, vedrai con i tuoi occhi, ci racconterai direttamente, Ubaldo. Fai la spaghettata anche tu, la matriciana? No, mangio qualche altra cosina. Stai a dieta. Grazie Ubaldo Cianciulli da Firenze. Ti consiglio, sì. Se per te smetti, sciacqui di limone, gargherini di limone e camomilla con bel po' di miele. Gargherini, sciacqui di limone e camomilla con un po' di miele, sei gentilissimo, è provvidenziale. Grazie, ciao Baldo. E tra l'altro allora, mi allaccio questa cosa per tutti gli ascoltatori che stanno scrivendo che forse la mia voce non fa così schifo stasera, siete molto molto generosi. Grazie comunque. Adesso invece parliamo di quello che sta succedendo in Turchia. In realtà sta succedendo da diverso tempo, ma ci sono delle soglie che a un certo punto si superano, anche se in realtà la comunità internazionale poteva già considerarle superate da diverso tempo. Comunque in Turchia è sempre più incerto appunto il futuro della democrazia, perché oggi, dicevo, a proposito di soglie superate, c'è stato l'arresto del leader del partito filo-curdo turco HDP, Demirtas, che è stato fermato con l'accusa di terrorismo con altri 10 deputati del suo partito, l'HDP. Uno sviluppo che già era stato prospettato mesi fa, quando il Parlamento turco aveva approvato l'emendamento costituzionale per annullare l'immunità parlamentare di 148 deputati, di cui 53 proprio appartenenti al partito HDP. Ma questo prelievo forzato dei deputati filo-curdi che sono stati accusati di terrorismo e che hanno respinto fermamente questa accusa, indica quindi l'addio di una nuova fase, di un nuovo corso politico, come forse ci confermerà da Ankara il nostro Marco Barbonaglia. Ciao Marco. Ciao, sono Istanbul io, per la verità. Sei Istanbul, scusami. Sì. Sì, Demirtas è stato arrestato ieri notte nella sua casa di Diyarbakir. Ha fatto in tempo a twittare: le forze di sicurezza sono alla porta, ed è stato poi prelevato da casa sua, stessa sorte che è toccata peraltro a Figen Yüksekdag, che è la co-presidente del partito, perché il partito HDP ha sempre due presidenti, è un partito giovane, nato nel 2013, ha due presidenti, un uomo e una donna. Entrambi sono stati fermati ieri sera e l'arresto è stato poi convalidato oggi. Erano state fermate 11 persone, due erano all'estero per la verità, tre sono stati rilasciati e sette, anzi ora le ultime notizie erano di otto di loro, per otto di loro è stato convalidato l'arresto. Come correttamente ricordavi, è qualcosa che parte da lontano, diciamo, nel senso che comunque quando a maggio è stata tolta l'immunità ai parlamentari, non soltanto a quelli dell'HDP, ma a tutti i parlamentari che avevano dei procedimenti penali in corso, peraltro anche con l'aiuto dei voti di parte dell'opposizione, sia dei nazionalisti che una ventina circa di socialdemocratici del CHP, ecco, in quel caso già diciamo che su 50 dei 59 parlamentari dell'HDP, più 53 come dicevi tu, pendevano dei processi. Per esempio sul capo di Demirtas in persona c'erano ben 75 procedimenti penali. Ora, in questo momento, il governo assicura che tutto è svolto nella massima legalità, eccetera, e la motivazione tecnica per la quale sono stati arrestati è perché si sono rifiutati, cosa che avevano detto peraltro fin da principio che avrebbero fatto, di presentarsi a testimoniare, convocati da un tribunale, in un processo nel quale sono accusati di propaganda al terrorismo. Naturalmente se questo fosse vero lo vedremmo molto rapidamente, nel senso che se fosse tutto qui non ci sarebbe bisogno nei prossimi giorni di tenerli in prigione, a meno che non vengano riconosciuti realmente come fiancheggiatori del PKK. Da questo punto di vista l'unica cosa che posso dire io è che secondo me l'HDP, che io ho visto grandi trionfatori delle elezioni, anche portare una grande speranza in Turchia il 7 giugno del 2015, quando si festeggiava, ragazzi giovani, non solo curdi peraltro, festeggiavano per le strade di Istanbul, ha commesso certamente degli errori politici, questo sì, però errori politici per quello che si è visto, cioè alcuni personaggi effettivamente hanno partecipato per esempio sono stati al funerale di un terrorista che si era fatto esplodere ad Ankara l'anno scorso, che sono stati dei passi falsi politicamente molto, molto gravi, perché hanno ho scoperto il fianco di questo giovane partito che era molto inviso a Erdogan fin da subito, perché Demirtas, con questo grande risultato alle elezioni di giugno 2015, riuscendo a catalizzare anche le speranze appunto di molti giovani, non solo curdi ma anche turchi, ottenendo un risultato straordinario, quindi andando oltre la soglia del 10%, dello sbarramento del 10%, ottenendo in quel caso un'ottantina di seggi, aveva impedito per la prima volta dal 2002 ad Erdogan di formare un governo monocolore nel suo partito. E adesso c'è, Marco, la reazione internazionale, no? Nel senso che Renzi si è detto preoccupato, Schulz, il presidente del Parlamento europeo, ha detto questo potrebbe compromettere i rapporti tra Ankara e l'Unione europea. In genere, vabbè, sono minacce, ne sono arrivate tante anche, no? Dopo il tentato golpe, diciamo, sono un po' di prassi, però effettivamente la Turchia sta prendendo una via, per cui è un po' difficile, almeno dal nostro punto di vista, non paragonarla a un regime che sta diventando dittatoriale. Ma questo, certamente ci sono state delle reazioni anche internazionali, ma la Turchia deve stare, secondo me, anche attenta a quelle che possono essere le reazioni interne. Mi spiego, non è tanto il problema che Marco Cedarolu, il capo del principale partito di opposizione, oggi ha criticato duramente gli arresti. Ha detto il governo sta spingendo la Turchia in una direzione pericolosa, però va detto che comunque l'opposizione in generale, il CHP per esempio, i socialdemocratici, non ha difeso molto l'HDP, i filo curdi, nel momento in cui sono stati da subito dopo il golpe messi all'angolo con l'accusa di, appunto, di essere conniventi al PKK. E però anche l'HDP si era schierato contro il golpe, per intenderci. Detto questo, non è tanto la reazione dei leader politici, quello che voglio dire è che il grande consenso enorme che ha avuto Erdogan dopo questo golpe può anche svanire nel momento in cui abbiamo visto tante volte in Turchia rovesciarsi nella storia. Però Erdogan dura da un po', insomma, vedremo se è un paese che riesce a trovare una strada un po' più equilibrata oppure no. Comunque certamente questi arresti sono un fatto grave. Grazie tanto, certo, Marco Barbonaglia. No, scusa, volevo solo dirti quello, sì. Concordo con te assolutamente, è molto forte in questo momento. L'unica cosa che volevo dire è che questi arresti potrebbero anche dare a una forza che politicamente è in difficoltà, non sappiamo cosa succederà, potrebbero anche dare più impulso. Più voti a questo partito. Grazie Marco Barbonaglia da Istanbul. Intanto arrivano rimedi per la tosse da ogni parte, vi ringrazio. Chi parla dello sciroppo di lumaca, che dovrebbe essere la bava di lumaca, poi un antibiotico specifico mi consiglia un ascoltatore, mutuabile dice nel caso, poi semi di pompelmo spray, citrus glice carlostia o qualcosa del genere, e poi un altro dice le ho mandato una terapia l'anno scorso ma lei non ha ascoltato, echinacea e anas cochum, da ottobre a marzo spesa 60 euro circa, quindi ogni informazione molto dettagliata. Caramella la menta, dice un altro ascoltatore, per esempio Levalda, dice Franco dal Bissola, e molti altri consigli di cui vi ringrazio. Adesso mi prendo appunti e finito oggi, diciamo, almeno nel fine settimana, vediamo se riesco a curarmi. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi, seppure la voce non è giustissima questa sera, ma arrivano un sacco di vostri consigli, anche dei farmaci impronunciabili, anche dei misti, fumenti di camomilla e un cucchiaio di bicarbonato, scrive Anselmo, e poi mi dà tutta la ricetta. Insomma, devo prendere molti appunti per questo fine settimana. Intanto voi continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Allora, siamo collegati con Firenze e abbiamo parlato del 50° anniversario della che devastò la città, degli angeli del fango, e poi partita la Leopolda oggi con Matteo Richetti, il primo sul palco, che è stato sempre un renziano fervente, poi hanno avuto un periodo di distacco e poi di nuovo è lui che ha aperto addirittura la Leopolda, quindi si può immaginare che il rapporto si sia rinsaldato. Ringrazio anche Susi, anche lei cita un farmaco veramente complicato da leggere. Ma adesso parleremo, abbiamo parlato anche molto di Turchia, del caos che prosegue in questo paese, che diventa, ecco, qui diventa sempre più difficile avere un rapporto lineare diplomatico per quanto riguarda l'Unione Europea e la comunità internazionale. Adesso torneremo invece a parlare del caso di Tiziana Cantone tra pochissimo. Intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Presidenziali americane, secondo le ultime proiezioni Clinton sarebbe sotto il quorum dei grandi elettori, 268 contro 204 di Trump, ne servono per vincere 270, intanto è massima allerta a New York per possibili attentati. Turchia, arrestati deputati curdi, proteste di piazza represse, condanna europea, ma Ankara replica non accettiamo lezioni dall'Europa. Iraq si combatte a Mosul, l'ONU denuncia uccisioni di massa e rapimenti. Terremoto, via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto. Partito Democratico, Renzi torna alla Leopolda, ma il PD non è mai stato così spaccato. Firenze, cerimonie e iniziative oggi per il 50° anniversario dell'alluvione che devastò la città. La ragazza suicida per il video hard, ne parleremo tra pochissimo, e poi il crollo del cavalcavia a Lecco, avviso di garanzia per 3 ingegneri, e sulla 4 vicino Brescia piovono calcinacci da un ponte chiuso un tratto di autostrada verso Milano. Radio Maria, il terremoto è stato un castigo divino per le unioni civili, dice un prete, il Vaticano si dissocia. E quindi torniamo a parlare, vi dicevo, del caso di Tiziana Cantone, la ragazza di Mugnano vicino Napoli, che si è suicidata il 13 settembre scorso dopo la diffusione sul web di un video che la ritraeva, una diffusione a sua insaputa di un video hard che la ritraeva. Ieri abbiamo parlato del fatto che la Procura di Napoli aveva chiesto l'archiviazione delle accuse nei confronti di 4 uomini indagati per diffamazione, però oggi c'è stato un nuovo risvolto giudiziario in questa triste vicenda. Secondo il Tribunale Civile di Napoli, Napoli Nord, dovevano essere rimossi da Facebook i link e le informazioni, in genere pagine di sfottò e insulti, una volta che ne era emersa nell'illecità dei contenuti relativi a Tiziana. Dunque il Tribunale ha parzialmente rigettato il reclamo di Facebook Ireland, dando invece ragione alla madre di Tiziana, Teresa Giglio, che è assistita dagli avvocati Andrea Imperato e Andrea Orefice. E allora sentiamo proprio Andrea Orefice intervistato da Enza Loddo. Secondo il Tribunale, Facebook ha l'obbligo di rimuovere le pubblicazioni illecite nel momento in cui è a conoscenza della loro illiceità, e quindi, per esempio, nel caso in cui si tratta di, come nel caso della povera Tiziana, di pubblicazioni di dati super sensibili, in questo caso attinenti la vita sessuale, nel momento in cui Facebook apprende dalla persona interessata che questa non ha dato il consenso alla diffusione di questi dati super sensibili, Facebook è tenuta alla rimozione dei contenuti che appunto contengono questi dati super sensibili illegittimamente pubblicati. Quindi è una pronuncia che riconosce margini di tutela ai cittadini, insomma, significativi. L'ordinanza di primo grado aveva anche stabilito un divieto per il futuro per Facebook di pubblicare qualsiasi contenuto che contenesse riferimenti alla persona di Tiziana Cantone. Facebook sul punto ha evidenziato che come hosting provider, e quindi assoggettato alla normativa del decreto legislativo 70 del 2003, non è in realtà tenuto a effettuare un controllo preventivo sulle pubblicazioni, evidenziando tra l'altro anche una difficoltà tecnica a effettuare questo controllo. E quindi su questo punto il Tribunale, applicando, le ripeto, la normativa vigente, ha riconosciuto le ragioni di Facebook sul punto, e quindi ha stabilito che l'obbligo di rimozione, l'obbligo anche di impedire la futura pubblicazione, sussista solo con riferimento ai contenuti segnalati. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Europa 24 notte. Lo spazio europeo, come cambieranno i rapporti transatlantici tra Europa e Stati Uniti a seconda di chi vincerà le prossime elezioni presidenziali martedì? È il tema dell'Euroreportage che andrà in onda domani alle 7:15. Però sentiamo un'anticipazione a questo proposito dell'intervista che Sergio Nava ha realizzato con Daniel Gross, direttore del centro studi CEPS a Bruxelles, chiedendogli per iniziare se le recenti frizioni in campo commerciale e fiscale lasciano un'eredità pesante sull'asse transatlantico. Non penso, in fondo c'è sempre qualche contenzioso commerciale tra gli Stati Uniti e l'Europa, ma in questo momento non si può dire che sia peggio del solito. Il caso Apple è naturalmente un po' diverso, riguarda non il commercio ma la tassazione delle imprese. Ma penso anche su questo si troverà alla fine un accordo. Quindi, le varie indagini che ci sono in corso anche da parte della commissaria Vestager, non solo su Apple ma anche su altre multinazionali, non stanno a suo parere inquinando un po' i rapporti tra Washington e Bruxelles? È chiaro che gli americani non sono molto contenti, perché la Commissione europea si focalizza sulle multinazionali, e quando si dice multinazionali sono naturalmente spesso multinazionali americane, ma è chiaro che l'intento della Commissione non è anti-americano, è solamente di gestire un problema intraeuropeo della tassazione di quello che fanno le imprese in Europa, e per caso nella rete cascono anche alcune imprese americane, ma non è veramente un confronto diretto tra Stati Uniti e Europa. Un altro fronte che resta aperto, nonostante si volesse chiudere entro la presidenza di Barack Obama, è il TTIP, il Trattato di Libero Scambio. Qui le prospettive sembrano molto molto grigie, almeno nel breve medio periodo. È chiaro che questo trattato in fondo è morto, perché gli Stati Uniti non si interessano tanto e per loro il Pacifico è la priorità, ma anche il trattato transpacifico che è già pronto non si sa se verrà approvato dal Congresso, per cui per gli Stati Uniti per il momento il trattato con l'Europa è di secondo ordine. Quanto peserà in futuro la quasi certa assenza della Gran Bretagna dall'Unione Europea nei rapporti economici e commerciali tra Europa e Stati Uniti? È chiaro che l'Europa diventa un partner ancora un po' meno interessante, perché manca la parte inglese, che è sempre forte per gli Stati Uniti, e soprattutto manca dal fronte geopolitico, perché gli Stati Uniti hanno sempre trattato l'Europa in termini anche commerciali, economici, piuttosto in termini geopolitici che solamente guardando solamente al loro interesse commerciale. L'assenza della Gran Bretagna diminuirà ancora agli occhi degli americani l'importanza dell'Europa. E quanto la debolezza dimostrata dall'Unione Europea nella rapidità ad approvare un trattato sostanzialmente semplice come il CETA può renderla un partner meno interessante per chiudere trattati a livello internazionale? L'Europa non ha fatto una gran bella figura sul CETA. È chiaro, non solamente a Washington ma in altre parti del mondo si chiederanno: ma vale la pena per noi di concludere un trattato importante con l'Unione Europea se alla fine non si sa se verrà approvato? Questo peserà sul futuro. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Grazie ancora ai vostri messaggi a Riccardo, Luca da Milano, Max Taxi, Susi, Silvia da Roma, Jacopo, Lidia. Adesso però vediamo se il nostro Paolo Corazzoni, Trebi Meteo, ci assicura un po' di sole, un po' di caldo e magari non mi potrebbe far male, Paolo. Insomma, siamo in pieno autunno, in fin dei conti. Però guarda, c'è una parte dell'Italia, cioè il sud, che avrà un fine settimana tutto sommato discreto, con sì qualche nuvola, ma pensa a temperature che toccheranno i 25 gradi al sud per i venti di Scirocco che si faranno sentire nel weekend. Al sud, perché al centro-nord in realtà weekend perturbato, arriva questo sistema nuvoloso piuttosto intenso, quindi piogge al nord, piogge sul medio alto Tirreno, quindi Toscana e Lazio, purtroppo piogge anche nelle zone terremotate, ma non sarà la zona maggiormente colpita, almeno quello. Però insomma weekend al centro-nord autunnale e al nord anche freddino, temperature non oltre 10-12 gradi. Paolo, quindi la speranza che un po' di estate ritorni è proprio completamente perché guarda, alla fine di domenica la perturbazione si sposta al sud, quindi a inizio settimana anche al sud a temperature in calo, insomma al comune mezzo grado, niente, siamo partiti, è finita. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Buon tempo a tutti, ciao. Ciao Paolo. Direi che adesso farò tesoro di tutti i vostri consigli, ci fermiamo a questo punto e ci riaggiorniamo giusto brevemente alle 22.